Mix 24 di Giovanni Minoli. La prossima versione della Panda andrà a finire altrove. Lo stabilimento di Brugnano è capace di fare vetture più complesse della Panda, senza offendere nessuno. Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia. La Panda si farà in Polonia dal 2020, mentre sono in arrivo due SUV, uno più grande di Stelvio a Mirafiori e uno più piccolo a Pomigliano. Motore nel bel mezzo della via, blem, blem, blem, blem, blem, blem. Sergio Marchionne delinea così le strategie future del gruppo in Italia. Grande spazio ai marchi premium, perché sono quelli che consentono a Fiat di competere sui mercati internazionali. Andavo a 100 all'ora per trovare la bimba mia, yeah. FCA si concentrerà sui marchi premium e a Pomigliano i nuovi modelli Alfa Romeo e Maserati. La prossima Panda non la faremo a Pomigliano e nemmeno in Italia. L'annuncio dell'amministratore delegato Fiat Chrysler Sergio Marchionne al Salone dell'Auto di Ginevra è di quelli da far drizzare le orecchie ai sindacati. Marco Bentivogli, segretario generale della FIMCIS, buongiorno. Buongiorno. Ha drizzato le orecchie sulla scelta di Marchionne oppure è stato tranquillo? Ma io credo che questa notizia così, detta così, fa drizzare le orecchie ai sindacalisti incompetenti. Noi da anni chiedevamo, proprio da quando è arrivata la Panda da DC, dalla Polonia, avevamo subito chiesto un secondo modello e il fatto che ci fosse progressivamente un upgrade delle produzioni verso modelli premium a marginalità più alta. Quindi Pomigliano è più adatta in realtà a produzione premium, come dice Marchionne, è vero? Voi concordate? Il nostro paese è più adatto a produzione premium. No, ma la marginalità che si fa su una Panda è bassissima se non negativa. Arriva da uno stabilimento polacco in cui lo stipendio medio è 450 euro e per poter realizzare gli investimenti in tecnologia che saranno soprattutto necessari sull'automotive serve appunto alzare il livello di produzioni. Quelli che hanno storto il naso è perché non sanno, sono incompetenti. Tutta la vicenda Fiat non sanno di che cosa parla. Quindi il grillino Di Maio, che ha gridato praticamente al golpe per la scelta di Marchionne, non sa di cosa parla. Ma sia Di Maio ma anche la Lega, quando dicono che bisogna mettere la tassa sulle Panda importate, vuol dire che di Panda non ne compreremo e non ne farà più nulla. Cioè, oggi questa vicenda della Panda di Pomigliano, di fatto, se si confermerà, poi verso la fine di marzo, aprile avremo il confronto finalmente con l'azienda, chiude il ciclo di un produttore quasi solo nazionale che si attestava sulle utilitarie come eccellenza. Ecco, senta. Sono due cicli che hanno portato alla chiusura dei settori automotive nei paesi che hanno avuto queste due caratteristiche. Cioè, quindi è una scelta di sviluppo, diciamo. Assolutamente. Senta, sì, dottor Bentivogli, le aggregazioni che sono in corso nel mondo dell'automobile porteranno Fiat Chrysler verso chi, secondo lei, visto che la Volkswagen proprio ieri ha detto che non ne vuole sapere di trattare con Marchionne? Allora, l'intuizione che quando è nata Fiat Chrysler, e per fortuna oggi assistiamo a questo scossone di PSA con Opel, già con un'aggregazione internazionale, con un produttore globale, è chiaro che in futuro ci saranno sei grandi player globali e bisogna esserci dentro, e bisogna assolutamente esserci dentro. È chiaro che non c'è solo Volkswagen, Volkswagen avrebbe avuto molto interesse soprattutto per la grande capacità di penetrazione commerciale che ha nel settore asiatico, sì, però, in Cina, però, appunto, però ha detto che non gli interessa trattare con Marchionne. Lei approva le scelte complessive a oggi di Marchionne? Ma la scelta di strategia internazionale senza dubbio, noi saremo, noi dobbiamo ricordare a tutti che la Fiat era morta dal 2003 in poi, era un morto che aveva, era morto pur avendo vissuto di tantissimi finanziamenti pubblici, quindi una morte proprio finanziariamente, più morto di così era impossibile, certo. Per noi poi è importante Pomigliano, noi, Marchionne ha un impegno con noi, lui sa bene che da Pomigliano è partito tutto. Infatti da lei ha firmato un accordo storico dei metalmeccanici, si riparte da lì sostanzialmente, insomma. assolutamente, e tra l'altro in una storia che nessuno ha mai raccontato di quello che è accaduto a Pomigliano, perché vero. Quando la FIOM disse di no, anche la Fiat si alzò dal tavolo e fu la nostra determinazione a dire no, noi quest'area, questa gente non la lasciamo alla camorra, alla disoccupazione, esatto. La trattativa continua, e infatti l'accordo fu firmato solo una settimana dopo, ma un bel pezzo di gruppo dirigente Fiat si auspicava un no corale di tutto il sindacato per poter andare via con questa alibi dall'Italia. Noi glielo abbiamo consentito e adesso ha un impegno con noi, deve sapere che Pomigliano non è la vecchia Alfa Sud, è un gioiello. Come è un gioiello, lo so bene. E quei ragazzi e quelle ragazze hanno vinto subito la medaglia d'oro come stabilimento WCM, cioè il sistema di organizzazione del lavoro a livello globale, e sono ai primi posti come produttività e capacità di crescita. Senta, Bentivogli, lei lo considera quindi affidabile come controparte, Marchion? Sì, diciamo, non è molto irrituale, spesso noi... ci auguriamo che accanto alla scelta di coinvolgimento che già c'è nelle accordi Fiat, abbiamo scritto molte pagine che riguardano il coinvolgimento dei lavoratori, si sfondi verso la partecipazione dei lavoratori. Naturalmente. Questo ancora manca nella cultura industriale, di relazioni industriali di Marchionne, ma noi non è state non addosso. Senta, sono tempi durissimi, gli operai rischiano di essere travolti da processi di automazione davvero esponenziali. Non pensa che sarebbe saggio frenare o regolamentare in qualche modo l'ingresso di macchine che possono causare perdita secca di lavoro e disagio sociale? No, in realtà è già avvenuto per troppi anni, questa idea che la tecnologia distrugge posti di lavoro è appunto per i salotti. In Italia la poca tecnologia ha distrutto posti di lavoro, noi abbiamo tutto il settore dell'elettrodomestico che ha delocalizzato proprio perché non si sono fatti investimenti in tecnologia. E quindi invece bisogna auspicarsi che sia sempre più forte. Senta, ma non è una cosa di sinistra fermare il progresso, è una cosa velleitaria, per cui è una cosa per gli snob che non hanno a che fare con i lavoratori. Certo. Senta, Bentivogli, Renzi è andato in California, non avrebbe fatto meglio andare in Michigan, a Detroit, dove sta per andare lei? Assolutamente, io penso che sia più interessante andare a Detroit, anche perché bisogna ricostruire con quelle persone e soprattutto con le occasioni industriali. A Detroit non c'è molto, ma ciò che è ripartito è di grandissimo interesse, e poi le idee sul lavoro che arrivano dalla California sono assolutamente da respingere. Ecco, io penso che accanto alla grande immagine di farsi vedere come innovatori, bisogna un po' più respirare quello che accade, quello che si muove, stare un po' più nel gorgo del cambiamento. E senta, lei cosa va a vedere precisamente a Detroit? Ha un piano di studio, sì, diciamo. Visiteremo aziende, ma il motivo fondamentale è che parteciperemo al network mondiale sindacale, che è una cosa su cui la mia organizzazione si è battuta moltissimo perché ci fosse un'organizzazione mondiale del sindacato su questo settore dell'auto, per confrontarci se ci sono questi grandi processi di consolidamento, di innovazione tecnologica. Esatto. Sapere di auto elettrica, auto senza pilota. Pensate che l'auto elettrica sarà un'auto con molti meno pezzi di produzione, per cui cambierà anche il modello, certo. Conterà tantissimo il software, un po' meno la meccanica, l'idraulica, per cui su tutte queste cose un sindacato competente deve starci. Senta, Bentivoglio, il mercato dell'auto è in via di trasformazione, lo sta dicendo lei. Uno di questi fattori in qualche modo si chiama Trump. L'idea di riportare le fabbriche in America è stata criticata. Di fatto però comincia a dare qualche frutto. Gli operai americani infatti hanno votato per Trump. Qual è il suo giudizio? Ma io credo che paradossalmente i mercati più sono aperti e più le cose vanno meglio. Tra l'altro anche il reshoring back a cui punta Trump non riporterà il lavoro da dove è partito, magari lo riporterà in un altro stato più attrattivo, per cui questa è una grande illusione. Lei dice che è un'illusione quella degli operai americani. Adesso è chiaro che bisogna riflettere alcune scelte di localizzazione, ma non in ottica protezionista. Anche Marchionne è stato costretto a spostare alcune produzioni dal Messico agli Stati Uniti. Beh, forse sarebbe il caso di rivalutare alcune produzioni dalla Serbia verso l'Italia, gli dico io, no, come la 500L. Però il ragionamento più complessivo è che con clausole sociali e contrattuali aree di libero scambio sono sicuramente meglio di accordi bilaterali. Senta, dottor Bentivogli, ma che cosa c'è stato di sbagliato nel processo di globalizzazione? Tremonti dice l'idea è giusta, ma i tempi sono stati troppo accelerati. Ma assolutamente. La globalizzazione è una parola che serve a distrarre le masse. La globalizzazione è un processo che si è accelerato ma arriva da molto lontano. Il problema è la capacità della politica di orientarlo, ecco, di rendere persone consapevoli nei consumi. La globalizzazione comunque ha portato avanti, ha favorito delle istanze sviluppate da movimenti nazionalisti e sovranisti in Italia e in Europa. Qualcuna di quelle lei la condivide? Ma non è stata la globalizzazione. Se noi pensiamo alla quantità di paesi che hanno scoperto lo Stato sociale, pensi al Brasile, al Sud America, una parte dell'Asia, che non avevano nessun diritto dello Stato sociale e che oggi in una situazione di tremenda disuguaglianza ma iniziano a conquistare alcuni diritti sociali, io farei attenzione. Sicuramente paesi come gli Stati Uniti, il Giappone, l'Europa perdono per peso. Per i paesi emergenti è stato sicuramente così. C'è chi dice che lei sarebbe un segretario perfetto per il PD, per un PD che ritorni al suo ruolo in una chiave contemporanea, cioè che pensi al lavoro, perché essere di sinistra senza rinunciare a essere di sinistra, cioè occuparsi del lavoro. Lei studia da segretario del PD o non gliene importa niente? No, io studio da segretario dei metalmeccanici, perché le assicuro che fare il segretario dei metalmeccanici, per come lo voglio fare io, bisogna anche studiare molto, confrontarsi tantissimo e questo lo sentiamo. Senta, ma lei andrà al Lingotto? No, non andrò. Perché? Non sono stato invitato, ma comunque non avevo programmato. Poi mi devo preparare ad andare a Detroit. A Detroit è più importante. Non si aspetta nulla da Renzi? Ma io mi aspetto che impari a andare oltre il recinto, ecco, a capire che c'è un pezzo d'Italia che la modernizzazione del paese da prima di lui cerca di conquistarla, ecco, per cui immaginare che forse bisogna andare accanto e oltre al circolo delle persone che si ha vicino e cercare di guardare. Insomma. C'è un'Italia che vuole il cambiamento e c'è una domanda di cambiamento. Ma più quando forte, lei dice abbiamo rovinato l'Italia, l'ha scritto in un libro, chi? I sindacati? Ma sì, una parte del sindacato ha rovinato l'Italia. Quando il sindacato, non tutto, non ha saputo, certo, è stato il miglior alibi per le imprese per non investire, con rigidità che hanno salvato la coscienza ai sindacalisti ma hanno chiuso le fabbriche. Quando si sono messi insieme i diritti con gli abusi dei diritti, io penso all'assenteismo, ai furbetti del cartellino, ecco, io penso che il sindacato ha un lavoro educativo di responsabilizzazione dei lavoratori. Grazie, ben ti voglio. Buon viaggio, speriamo che torni con delle idee molto utili per tutti noi. Grazie a voi. Grazie Mario, che ne pensi? Ti voglio una figura davvero, davvero unica nel panorama sindacale. Perché molto entusiasta, positivo, ottimista, un po' troppo secondo me sugli effetti della globalizzazione, ma una sfumatura, non ci sono problemi. Non a caso non l'hanno invitato al Lingotto, come al solito. Non vedono le cose. Pietrangelo, ti voglio, è sembrato concreto, si vede che conosce le fabbriche, il lavoro. In fondo si tornerebbe alla tradizione in cui il sindacato formava anche ottime figure politiche, no? O sono tempi passati? No, sono tempi di sciopero. E vorrei scioperare io, anche tu. Perché basta. Antonio Forchione, 55 sì, anni, lunedì è stato cacciato dopo 37 anni di lavoro a Rivoli. Rientra al lavoro dopo un trapianto al fegato e viene licenziato dalla sua azienda perché è considerato inabile al lavoro. È inaudito ed è inaccettabile. Assolutamente. E la politica è quello. Ancora i sindacati, nonostante abbiamo. Comunque, cambiamo pagina, ma simbolicamente restiamo a Torino, nella capitale dell'automobile, al Lingotto, dove Matteo Renzi, appunto, presenterà il suo programma per la corsa alla segreteria del Partito Democratico. Abbiamo con noi Dario Nardella, sindaco di Firenze. Buongiorno Nardella, renziano della prima ora. Buongiorno. Buongiorno Minoli, a voi in studio e a chi ci ascolta. Grazie. Senta, questa storia di Forchiello è tremenda, questo licenziamento effettivamente è una cosa che non ha spiegazione, non è accettabile. Senta, lei cosa si aspetta dalla relazione di Matteo Renzi a Lingotto? Ma io mi aspetto un discorso inclusivo, nuovo, aperto, maturo, che sia consapevole che da una sconfitta sonora, perché questa è stata, non c'è dubbio, ma si possa uscire anche con una rinascita. Senta, lei, lei interverrà con la sua relazione o no? Io vado innanzitutto ad ascoltare, se poi mi daranno la parola farò anche un intervento, ma mi interessa ascoltare. Ora è il momento di ascoltare il paese reale. Ma perché sarà il paese reale a parlare a Lingotto? Io credo che ci sarà anche un pezzo di paese reale e soprattutto il Lingotto può essere una prima tappa. Ho apprezzato molto il fatto che Renzi stia girando l'Italia, soprattutto il sud, da Scampia alla Locride, per vedere con i suoi occhi e per ascoltare con le proprie orecchie. Certo, aiuta. Senta, gli errori di Renzi comunque nella sua campagna referendaria li abbiamo visti tutti, lei parla di un nuovo Renzi, della necessità di un nuovo Renzi, ma subito dopo però non ha avuto troppa fretta. Ma subito dopo credo che abbiamo sbagliato un po' tutti. Dopo le dimissioni di Renzi, tutto il gruppo dirigente del PD, ma incluse le minoranze, hanno dato la sensazione di non saper imboccare una strada chiara. Nessuna. Beh, io le faccio ora un esempio. Abbiamo il congresso, forse l'avremmo dovuto fare subito, forse avremmo dovuto, diciamo, imboccare immediatamente la strada del congresso. Oppure veramente oppure la conferenza programmatica, come dice Orlando, cioè per parlare veramente di cose. Orlando dice: sono anni che non parliamo. Però una cosa è un fatto certo: i grandi leader, quando sono stati sconfitti, hanno sempre fatto delle lunghe traversate del deserto prima di tornare. Penso a Mitterrand, a De Gaulle, a Churchill, anche a Fanfani. Renzi invece no, ha subito premuto l'acceleratore per il congresso. Teme di essere logorato. Cioè, riflessione no. Poca, perché poco, obiettivamente. No, per la verità, sì, non so se ha la registrazione di D'Alema che a Napoli diceva o congresso o scissione. Sì. E quindi, insomma, erano in tanti, prima a chiederlo, poi a non volerlo, e questo è il punto. Sì. Il PD è stato troppo incerto e alla fine credo che Renzi abbia fatto bene a togliere ogni indugio e ad andare verso Per togliere l'alibi in qualche anche, modo. Perché no? Cioè anche, la scissione era programmata comunque, congresso o non congresso? Beh, questo non lo so. Anzi, no? Sembra. Non ho ancora capito e molti cittadini ancora non hanno no, capito. No, quasi nessuno ha capito scissione. Perché, non l'ha capito quasi nessuno. Senta, ma il carattere di Renzi in questa vicenda è un vantaggio o un limite? Ma io credo che un po' tutti i leader abbiano un carattere pronunciato, soprattutto quando sono leader, come dire, con atteggiamenti determinati. Non saprei se questo abbia pesato. Ecco, no, non credo. Glielo chiedo? Perché senta cosa ha detto a me in un faccia a faccia poche settimane. Il suo peggior difetto qual è? Talvolta troppo cattivo? È come un po' arrogante? E talvolta anche impulsivo, se no non l'avrei risposto così. Vede, cattivo, arrogante, impulsivo. Se in una fase in cui bisogna passare dall'io al noi, non so se aiuta l'inclusione, che dice? Certo, aiuta. E comunque, aiuta, ad ascoltarlo non è stato clemente con se stesso in quella circostanza. No, no, certo, se è stato sincero, ma io sto chiedendo, quel carattere lì, descritto in modo sincero, è quello che serve? Io ho lavorato 4 anni da vice sindaco accanto a Renzi e mi sono sempre sentito responsabilizzato e coinvolto, quindi so che Renzi è capace di fare un lavoro anche quello. Senta, lei amministra Firenze, appunto, sente intorno a sé però una fiducia diminuita nel PD? Ma a Firenze per fortuna c'è un buon clima. Non sente un po' di... Sento in generale da parte dei cittadini una sfiducia verso la politica che ovviamente si riversa anche sul PD. Poi una campagna mediatica di questa portata che si sta vivendo è chiaro che allontana i sostenitori del PD, ma credo anche nei recuperi. Insomma, il Barcellona di ieri pomeriggio ci ha insegnato molto. Ci ha insegnato da 4-0 a 6-1. Non lo so chi avrebbe scommesso una lira, certo. Mi sembra un bel esempio. Senta, quindi questa rottura del partito, secondo lei si poteva evitare visto che nessuno ha capito perché è capitata? Evidentemente sì, ma ormai alle nostre spalle è fatta. Qualcosa. Senta, secondo un sondaggio di Demopolis, che vale quello che valgono i sondaggi, cioè poco, alle primarie però andranno a votare solo 1,5 milioni di elettori, erano 3 milioni, si sarebbero dimezzati. È perché uno strumento logoro la gente veramente anche non capisce per cosa si vota? No, le primarie non sono uno strumento logoro, non andiamo a cercare responsabilità, non diamo la colpa agli strumenti, sono le persone e le idee. Io credo che dobbiamo andare avanti per la nostra strada e tornare a parlare del paese, il paese reale, da sindaco glielo dico. Naturalmente, lei ne ha un'esperienza. I temi della sicurezza che vengono ancora una volta bollati come temi di destra, tra virgolette, non l'ho mai capita questa cosa. Insomma, argomenti che i cittadini considerano niente affatto marginali. La politica, lo diceva benissimo anche il capo dell'INPS e anche lo dicono molti sociologi, la politica deve ripartire dal territorio. Ecco, ma ripartire oggi gli elettori chiedono più protezione, lo sta dicendo anche lei, meno Europa, un po' più di sovranità, lavoro, reddito, immigrazione controllata. Sì. Può essere questa la linea del nuovo Renzi? Però il 4 dicembre gli italiani hanno bocciato Renzi e il suo programma di governo, bisogna cambiarlo completamente. Ci sono cose fatte che io credo siano state molto positive. Insomma, la sinistra è stata anni a parlare di diritti civili e poi ci voleva un Renzi che non viene dal PC né dal PDS per la legge sulle unioni civili. Sì. Lo stesso vale per la legge sul caporalato, lo stesso vale per la grande battaglia sul blocco del patto di stabilità. Anche qui è passato, come dire, in cavalleria, ma da 2 anni finalmente i sindaci possono tornare a investire su strade. Questo è vero. Senta, quanto pesa l'inchiesta Consip secondo lei in questo momento nel sentimento delle persone? Guardi, pesa molto nella misura in cui, devo dire, i media ne hanno fatto una vicenda di grande sensazionalismo. Vabbè, allora noi non facciamo il sensazionalismo, però le dico una cosa. Le risulta che ci siano state delle incomprensioni sul caso Lotti tra Renzi e la Boschi? Ma io sto poco a Roma. Non ne ha sentito parlare. Ma non mi risulta. Senta, la Boschi però, all'epoca, per conto del PD, chiese le dimissioni del ministro Cancellieri. Senta qua. Quel punto è che questa è una vicenda che mi lascia un senso di tristezza addosso. Perché non è tanto capire se ci debbono essere o meno le dimissioni del ministro Cancellieri, se viene meno la fiducia nei confronti del governo. Il punto vero è che è in gioco la fiducia nei confronti delle istituzioni. E allora, il ministro Cancellieri può decidere di dimettersi, il presidente Letta può decidere di chiedere le dimissioni come ha fatto in passato in altre occasioni con Josefa Idem. Nell'una né l'altro l'hanno fatto ad oggi, quindi non spetta a me dire si deve dimettere. Io posso dire che al suo posto l'avrei fatto, mi sarei dimessa. Beh, si è trovata al suo posto e non l'ha fatto, ma in ogni caso chiedere le dimissioni della Cancellieri, che era stata difesa dallo stesso Caselli, non le è sembrato un errore? Ah, per la verità, Minoli, non so se lo ricorda, io ero tra coloro che non riteneva doveroso che la Cancellieri si dovesse dimettere. E quindi a maggior ragione oggi posso anche difendere con più coerenza e trasparenza. In questo caso è coerente, certamente. Quindi fu un errore, fu un errore allora, sarebbe un errore adesso. Quindi la Boschi si è sbagliata. No, è un suo punto di vista, non mi voglio distinguere per forza d'accordo dalla Boschi. Vabbè, l'ha fatto. E non era solo il suo. Le ripeto, le situazioni sono anche diverse. E peraltro so appunto che ora il Parlamento, tutti sanno che dovrà affrontare la questione della sfiducia. Certo. Io trovo che sia sbagliato. Lotti fa bene andare avanti, lo conosco, lo stimo, ho lavorato con lui e non merita questo trattamento. Senta, sindaco Nardella, adesso Renzi vuole cavalcare, come l'ha scritto sul Sole 24 Ore l'altro ieri, cavalcare la commissione di inchiesta sulle banche. In mezzo però c'è anche il caso di Banca Etruria col padre della Boschi. Non c'è un rischio boomerang in questa cavalcata? Non lo vedo, nel senso che la commissione è utile perché è uno strumento che fa chiarezza e trasparenza. Deve però partire da lontano. Perché, certo, naturalmente. Diciamolo con chiarezza. Viene da molto lontano il problema delle banche, non c'è dubbio. Chi pensa ai problemi delle banche vengano dagli ultimi 3 anni no. In malafede. Sì. Quindi si vada avanti, bene che il PD e Renzi lo chiedano. Soprattutto una cosa le devo dire, anche su MPS e sulle varie banche, mi capita di parlarne spesso con i cittadini miei. Sì. La cosa più insopportabile è la sensazione che alla fine né i manager e nei debitori insolventi siano coloro tra i primi che pagano a rispondere di questo. E quindi c'è un obiettivo in questa richiesta anche di colpire chi doveva sorvegliare, manager e autorità di controllo, e non l'ha fatto, cioè per esempio Banca Italia. Non so se, non credo ci siano dei pregiudizi o degli obiettivi precostituiti, ma mi aspetto da questa commissione che ci sia un lavoro chiaro, preciso, che non vada per le lunghe e non finisca nelle sabbie. Però naturalmente, a proposito di banche in crisi, una delle più in crisi di tutte è il Monte dei Paschi, che è, anche se è in mezzo a un palleggiamento di attenzione fra l'Unione Europea e le decisioni prese dal governo. Senta, cosa mi ha detto Renzi sul Monte dei Paschi? Il 22 gennaio ha detto: il Monte dei Paschi è risanato, adesso investire è un affare. Lo penso tuttora e credo che se ci sarà un investitore internazionale o italiano che vorrà investire sul Monte dei Paschi farà un affare. Ha perso il 100% del valore il titolo. Un Presidente del Consiglio forse si sbilancia un po' troppo a dire una cosa del genere. Ma sul Monte dei Paschi ho sentito tutti i Presidenti del Consiglio negli ultimi 20 anni dire la stessa cosa. Sì, ma adesso stiamo parlando dell'ultimo, esatto, dell'ultimo Presidente del Consiglio. No, non è per eludere la questione. Il punto qual è? Che dopo il referendum è calata la fiducia degli investitori finanziari, quindi Renzi a quel tempo credo non avesse motivo di mentire o di eravamo esagerare. Già a meno 60% del valore del titolo, ma insomma, guardi, io ho girato soprattutto negli ultimi mesi molto nel mondo, ho incontrato grandi investitori finanziari che avevano aspettative fortissime sull'esito del referendum. Si può essere d'accordo o no con il referendum, ma la vittoria del no ha indebolito molto l'immagine e l'affidabilità dell'Italia di fronte agli investitori. Senta, lei crede che sia ancora possibile per Renzi conquistare la segreteria e poi candidarsi a Palazzo Chigi? Guardi, posso dirle che in più occasioni in cui ho parlato con Renzi l'ho sentito anche pronto alla cosiddetta traversata nel deserto. Anche a lasciare tutto, del resto le sue indicazioni. Ma l'aveva detto, ma poi non l'ha fatto. Allora, sì. Paradossalmente sarebbe stato un gesto egoistico, lasciare tutto e lasciare tutto il lavoro fatto e quei 13 milioni di italiani che hanno avuto fiducia verso le riforme. E la circostanza sarebbe stata davvero negativa. E quindi e adesso lei pensa che sia ancora possibile? Nell'interesse di tutti. Minoli, io sono convinto che oggi Renzi continui ad essere l'unico in grado di poter far vincere il PD. Però il referendum ha dimostrato che il suo nome divide, non unisce, d'accordo? Si può imparare dalle esperienze. Se si è giovani, secondo me si è anche più disposti a cambiare. Senta, lei è defilato dal suo osservatorio. Come vede il fatto che gli altri due candidati siano un ministro della giustizia come Andrea Orlando e un magistrato in aspettativa come Michele Emiliano? Siamo ancora all'intreccio tra politica e magistratura che sta facendo e ha fatto sempre dei grandanni? Ma queste sono valutazioni che devono fare i diretti interessati, Orlando e Emiliano. Credo che saranno giudicati dai loro sostenitori anche in questo. Tuttavia sarebbe sbagliato se noi, sostenitori della candidatura di Renzi, impostassimo il congresso con su quello, certo, naturalmente. Dobbiamo sfidarli sul terreno concreto dei valori e soprattutto delle proposte concrete. Ha sentito, sì, non so se sì. Ha sentito Bentivogli, un sindacalista, esatto, straordinario, molto interessante. Io mi auguro che siano al centro del confronto congressuale. Senta Nardella, lei ha nostalgia un po' di Montecitorio o no? No, per niente, sto bene a Firenze. Bene, senta, chi dice che è in marcia di avvicinamento verso Franceschini sono dietrologie romane? Guarda, mi è venuto da ridere, leggendolo. Più che leggendolo direi leggende. Ah, leggendo. Senta, renziano per sempre allora? Ho sempre detto a Matteo che lui è molto di più ed è molto più forte del renzismo. Bene, grazie Sindaco Nardella. 800 24 00 24 per gli sms, 349 238 6666. Pubblicità. Mix 24. Allora Pietrangelo, che cosa ci fai ascoltare oggi? Arriva side that I've been lucky, but I've been needing to crack all week. Yes, I've been involved. Allora? Sala fermata Cornelia, stamattina uno entrava da sud, un'altra entrava da nord e come nelle tombolate più assurde del destino si sono incontrati, si sono ritrovati nello stesso vagone per non guardarsi, per non salutarsi, per non fare altro che calmare in petto il tuffo del cuore in gola e poi arrivare a termini, uscire e baciarsi mentre la folla dei pendolari intorno proseguiva nella maestosa tombolata che ha un'infinita contabilità di baci, tutti definitivi. Ha chiamato Cyrano de Bergerac, ha voluto questo brano per Roxane con un messaggio: mettiamo un punto, non più l'apostrofo. Vai Mario, con la tua bolla, oggi dove ci porti? Ma in Italia. Che è sta roba? Calibro 35, arrivederci e grazie. Sì. Ma che è musica, no? Minolis. Ma la mia ignoranza è tale che sei, mi fermo, sei fermo a Bruno Lauzi, che era un no, grande, no, ho comunque fatto anche dei passi avanti, ma non molti. No, senti, prima di dirti che cosa avevo fatto, c'è una cosa. Allora, è molto divertente tutta questa roba sulla tassa per, i, per far arrivare in Italia i cosiddetti super ricchi, cioè una flat tax di 100.000 euro e tu sei a posto, vieni qua. E finalmente, come un perfetto imbecille, e quindi bisogna trovarlo, arrivi in Italia dove c'è uno dei sistemi fiscali più complicati del mondo. No? Con centinaia di scadenze, una tassazione tra le più elevate del mondo, e quindi secondo il nostro legislatore, ed anche vedo la, come il conformismo della stampa, dovremmo avere la corsa ad arrivare a, no, a, a mettere la residenza fiscale nel nostro paese. Con tutti i posti che ci sono nel mondo devono venire proprio qua, dove il fisco è praticamente Dracula. Detto questo, poi, per aumentare le incertezze e quindi per dare ancora più voglia, diciamo, desiderio di venire qua al ricchissimo contribuente, il quadretto è il seguente. E quindi mettetevi nei panni del ricco contribuente che ha bisogno di una cosa che si chiama certezza fiscale. Un rapporto fair con quelli che gestiscono i tributi, cioè con i politici, cioè con lo Stato. Sto con Gentiloni, ma niente IVA e niente tasse. Sto con Gentiloni, ma niente dimissioni di Lotti. Sto con Gentiloni, può restare fino al 2018, ma si fa come dico io. E il Renzi di oggi, cioè quello che doveva dire noi. In realtà Giovanni è sempre io. Ora, il Presidente del Consiglio. E soprattutto, cioè Gentiloni come Letta, dici? Io non dico niente. Non dici niente, no. No, ma tu mettiti nei panni del contribuente che deve venire in Italia, del Presidente del Consiglio, che comincia un vertice europeo con qualche problemino per noi, diciamo così, e del Ministro dell'Economia, che deve fare una manovra correttiva da 3,4 miliardi e poi, quando sarà dopo le vacanze estive, chiamiamole vacanze, dovrà fare una nuova invece manovra complessiva di bilancio. Secondo te il contribuente viene in un paese così folle? Io credo di no. Dici di no, eh? No. Bene. Salamino! Due padri, un solo bimbo. Il Pitti bimbo, per dirla con Dagospia. Oh, quindi oh, no, non si tratta di famiglia arcobaleno, ma di famiglie allargate della politica. Dove c'è un bimbo c'è un biberon. Giusto? Oh, Forza Italia non si accanisce contro il Partito Democratico e non vota la sfiducia a Luca Lotti. E così, mentre il padre naturale di Matteo Renzi, cioè Tiziano, vola a Medjugorje e lo fa di nascosto da Papa Francesco, va da sé, l'altro papà di Matteo, il padre spirituale, lo zio Silvio, a tutti noto, dà disposizioni tassative ai propri parlamentari. E perfino Renato Brunetta, Giovanni, il più eroico balilla in guerra contro l'arroganza del giglio magico, si addolcisce. Dice: Non sfruttiamo questa vicenda. Eppure la pitonessa, la Santanchè, si mostra tenera con Luca Lotti. Vogliamo batterlo politicamente e non attraverso i giudici. E zio Silvio, dunque, padre spirituale di Matteo, offre perfino il proprio avvocato, Niccolò Ghedini, che si scaglia contro l'uso strumentale delle indagini per finalità politiche e definisce, giustamente barbaro, l'utilizzo dell'inchiesta sul padre di Renzi. Insomma, la verginità di Matteo risulta disonorata. Disonorata. Due padri, un solo bimbo. Uno, Tiziano, va appunto a Medjugorje. L'altro, in attesa della sentenza della Corte Europea, va a mangiare da McDonald's. Se ne va dove? Tra gli hamburger di Segrate, a godersi il finale di una lunga traversata nel deserto. Forse. E faccio mia la sentenza di Mario Sechi. Ed è subito Trump. Forse ancora nessuno lo rimpiange, scrive oggi nel suo caffè Massimo Gravellini, ma di sicuro nessuno lo detesta, e di sicuro si sono stemperate le aspre battaglie. Matteo Renzi nel passato, già nel governo Letta, e lo hai ricordato prima tu Giovanni, e poi nel proprio, ha preteso le dimissioni di Anna Maria Cancellieri per tramite della soave, severa, serena Maria Elena Bostic. Quindi ci sono state le dimissioni di Maurizio Lupi, di Nunzia De Girolamo, di Federica Guidi. Dimissioni chieste sulle basi di indiscrezioni e fatti poi smentiti o risibili. Comunque dimissioni imposte dal giglio magico. Va da sé che, insomma, questi uomini e queste donne, uno zio Silvio lo troveranno di sicuro ben più che un padre, bensì gigante. Pensaci tu con piacere. E con piacere il cavaliere saprà il fatto suo. C'è ancora una bolla, Mario? Sì, ma io volevo parlare con te non prima di aver sentito Sex Pistols. Ah, questi, capito anch'io. Questi ti piacciono? Più di prima. Un po' più rumorosi di Bruno Lauzi, sì. Bruno Lauzi c'ha ancora, ancora, posso dire una cosa? Devono arrivarci al livello di un Bruno Lauzi di questi Sex Pistols, no, e quegli altri di prima, di cui manco mi ricordo il nome. No. Come sono, si senza nome. Ridillo Sex Pistols. Dai, vai, vai, vai, Sex con la bolla. Abbiamo 30 secondi. 30 vai. Secondi per dire solo questo. Viva Pignatone. Perché viva Pignatone. Il procuratore in capo ha detto che basta fughe di notizie. Ha ragione. Ha messo il dito non sui giornalisti che se hanno una notizia la devono pubblicare per dovere, ma sul fatto che nelle procure c'è sempre un po' di fuga di notizie. Quindi basta, si applica il codice. Fatelo. Non punite chi fa il suo mestiere, ripeto, perché se noi abbiamo la notizia, d'accordo, tranquillo, la pubblichiamo. Impedite che i verbali escano e vedrai che noi non pubblichiamo nulla. Molto, molto, molto semplice, principi di civiltà giuridica. Grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms, pubblicità. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Mix 24. Bob Marley, il figlio dello scandalo nato dall'unione tra una giovane donna nera giamaicana e un anziano ex colonnello inglese in pensione, nato nel febbraio del 45 nel cuore della Giamaica in un villaggio rurale. E lui, è Bob Marley, la prima rock star del reggae, simbolo di emancipazione e di spiritualità rasta. Quando muore, l'11 maggio dell'81 in un ospedale di Miami, aveva solo 36 anni. Dopo il giornale radio raccontiamo la sua storia. Mario, c'hai ancora una bolla? Sì. Mazza, fichissimo. Giovanni, ti informo che, visto che ieri avevamo fatto una puntata su Facebook, l'esplosione dei social e sì, l'implosione del giornalismo, purtroppo, ti informo che c'è una divisione di Facebook, un gruppo di lavoro che sta lavorando sulle immagini affinché... Insomma, un sistema di intelligenza artificiale attraverso le immagini non solo le riconosca, ma faccia il passo successivo, cioè quello di sviluppare una sorta di senso comune, quindi di intelligenza che si avvicina moltissimo. Insomma, la ragione del cervello, va. E alla fine arriviamo a questo, che la macchinetta fa tutto, arriva dentro il cervello sì. E te lo plagia. Così consiglio di vedere il film con Will Smith, tratto, anzi ispirato dal libro di Asimov, Io Robot, che è uscito qualche anno fa, molto che racconta queste cose. Oppure Automata, un altro film molto interessante. E intanto adesso col professor Roberto Bernabei noi commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Journal of American Geriatric Society, agosto 2016. Cause di sincope e cadute inspiegabili in anziani con demenza. Già le cadute e la sincope, che è la perdita di conoscenza transitoria, sono un problema abbastanza serio, tipicamente degli anziani, ma figuratevi quando è un problema che capita in una persona affetta da demenza, perché è evidente che avrà difficoltà a spiegarti il come e il perché l'episodio è avvenuto. Allora un gruppo di italiani molto bravi che studiano queste problematiche da molti anni sono andati a cercare di capire perché e come si verifichino queste problematiche in un gruppo di dementi. 357 dementi con un'età media di 84 anni che sono stati sottoposti all'esame obiettivo, la raccolta della storia, la misurazione della pressione in piedi, perché sapete che normalmente il cambio di stazione da supini a eretti provoca in alcune persone un brusco calo di pressione che può determinare una caduta o una perdita di coscienza. Sono stati sottoposti anche a ecocardiogramma, a registrazione di ECG Holter, cioè per 24 ore per vedere le aritmie, e a tilt test, che è il test per vedere appunto se sei soggetto a ipotensione ortostatica. Nel 70% dei casi si è riusciti a capire qual era la problematica sottostante e, guarda caso, si è confermato che l'ipotensione ortostatica e l'utilizzo sbagliato di farmaci ipotensivi sono i leader nel determinare, anche nel demente, le cadute e la sincope. E per chiudere oggi, Gloria Guerrera, cosa ci ha scelto? Oggi una canzone per chi procura tanti guai, ma sa cingere e stringere con potenza. L'amore è tutto qui, di Piero Ciampi, cantata da Chiara Galeazzo. Se sono